stata fatta un'inchiesta approfondita e ha portato a un nulla di fatto. È lo stile dei dirigenti che viene fuori. No, mi preoccupate voi, sinceramente. È un affaticamento, come sono stati milioni in ogni sport. Primi e secondi in qualifica qui, primi e secondi in gara qui, hanno vinto anche a Singapore, quindi definitivamente le ultime 3 o 4 gare sono state molto dominanti per loro. Tutti convocati di Carlo Genta. Ole por partir mi corazón, ole porque tu amor no tiene dueño y a mí me ha tocado un poco. Ole ci prova anche Kimi Raikkonen, Alonso. Alonso all'esterno. Alonso cattivissimo all'esterno per gettarsi subito all'inseguimento. Secondo te questa è una Ferrari mondiale e che può vincere il titolo mondiale? Sì, certo che può vincere, la dimostrazione sono queste 5 gare, abbiamo fatto 3 senza problemi, una seconda posizione in Australia e 2 vittorie, un ritiro in Malesia e quasi un ritiro in Bahrain, quindi con gare normali, che è quello che dobbiamo fare da adesso in poi, sappiamo che il podio è un target abbastanza vicino. Ultima chicane per Fernando Alonso, per poi andare a prendere l'ultima curva e già esultare. Fernando Alonso va sul traguardo e va a prendersi il boato del pubblico. Ole por tus besos, por tu lengua, ole por girarme la cabeza, ole por la vida. Ciao a tutti, come avrete capito la copertina curata da Franco Piantanida con Roberto Scaltritti in regia. Per il momento non abbiamo nessuna voglia di parlare, almeno da subito, poi lo facciamo, della vuota stupidità che c'è in questa coda del campionato di calcio e del vuoto pneumatico di certe teste che per fortuna per 3 mesi non vedremo più. Siamo ieri scappati presto da certe pseudo partite in una domenica che ha offerto un sacco di altri divertenti storie sportive, a cominciare appunto da quella di Alonso, che non ha vinto in Spagna, ha asfaltato la concorrenza dopo quel sorpasso alla curva 3. 800 24 00 24 per intervenire e dire quello che volete, come sempre tutti convocati, però in un lunedì come questo sono contento solo se comincio parlando con Leo Turrini, inviato di QS e scrittore. Sono contento anch'io, ciao. Valentino Rossi avrebbe detto sverniciati. Ma guarda, io immagino che tu voglia parlare con me del Giro d'Italia, sì? Perché ieri a Barcellona è stata disputata in via eccezionale una tappa del Giro, sì. Nel senso che per la prima volta i bibitari hanno beccato un distacco ciclistico. Sì, Vettel sì. È arrivato quasi lontano da Alonso come Wiggins da Nibali quando sì. C'erano le salite, sì. Ed è stata una situazione molto insolita, tant'è vero che non so se lo sa il bibitaro supremo, che si chiama Matt Neschitz, l'uomo che ha inventato le lattine e tutto, sta facendo un flamba clamoroso. Ieri sera ha chiesto un incontro urgente con Bernie Eccleston, gli ha detto: questo non è più automobilismo, avete distrutto la Formula 1 trasformandola in una sorta di algoritmo, con queste gomme noi non possiamo più chiedere a Vettel di andare forte, ma siamo costretti a invitarlo ad andare piano. Insomma, prima vincevano, andava bene, bravo, adesso non va bene più. Perdere fa male, poi si potrebbe discutere sul principio in sé, sì. Ma fin quando erano i bibitari a mostrare la polvere e il loro retrotreno, la Ferrari, andava tutto bene. Andava bene, certo. Però Leo va detto che comunque con delle gomme così maledettamente perfette che ti permettono di calcolare esattamente quanta strada farai, a quale velocità, quando si spaccherà tutto, con delle gomme così perfette, onestamente ci vuole la laurea in ingegneria per capire davvero lo spirito della corsa. Sì, no, ma guarda, allora mi spiego meglio. In termini, dicevo, di principio, non è sbagliata l'osservazione del Bibitaro, eh? Sì. Perché sinceramente tutti la domenica ti metti lì a guardare un gran premio, avresti bisogno di uno specialista in equazioni a 4-5 incognite, no? Sì, sì, sì. Allora tu capisci che insomma quello che è l'elemento agonistico, come lo intendevamo tu e io, che c'eravamo già all'epoca delle guerre puniche, cioè vince quello che va più forte, diventa anche meno vero, perché a volte invece arriva primo quello che è più abile nel gestire le gomme. C'è però una cosa che il Red Bull sottovalutano, che alla fine della fiera, anche con questa realtà che abbiamo descritto, che a me non piace, guarda caso davanti, compreso Vettel, ci sono poi sempre i piloti migliori. Ma certo. Prima tu hai detto una cosa giustissima, vedi, io adoro la tua trasmissione perché posso darti ragione. Ma insomma, quello che ha fatto Alonso il primo giro all'esterno, su Raikkonen e Hamilton, è una cosa che al netto di tutte le cose che ci siamo detti a proposito di astruserie, sì, è fantastico, cioè lì hai visto il pilota che tiene giù il piede, no? Che azzarda, che semplicemente rischia, libidinosa, cioè, direi, potrei usare dei termini direi, che neanche la Boccassini proprio, oggi direi proprio di sì, insomma molto più eccitante questo passo lì, exciting, sì, eccitante, sì, giusto, corretto, del matrimonio di Valeria Marini in diretta sulla Rai, ecco, vorrei dirlo, hai capito, sono spettacoli, sì, e spettacoli, se me lo concedi, ma certo che te lo concedo, mio caro, ti concedo anche un attimo di respiro che c'è il traffico e poi chiudiamo la chiacchiera, perché mi sono venuti in mente un paio di cose carine, interessanti. Bene, bene, aspetto le informazioni sul traffico. Informazioni sul traffico. Allora, insomma, ragazzi, stappate le vostre lattine di bevande gassate, ma piantatela di darci lezioni di etica. Tutti convocati. Vedi, mio caro Leo Turrini, Cina vince la Ferrari, Spagna vince la Ferrari, unici due gran premi, non in esclusiva Sky, che quelli della rossa si concedano soltanto alla grande platea della TV di Stato. Ma lo so che tu volevi arrivare a questo, infatti lo so, che lo sai. Ero tentato di prevenirti. Eri preparato. No, beh, allora senti, mettiamola così. No, ma non sto parlando di scaramanzia, sto parlando di curiosità. No, è la curiosità che peraltro poi aiuta anche Sky, perché ad esempio il prossimo Gran Premio lo vorranno vedere tutti, no? Sì. Monte Carlo, ed è in esclusiva solo su Sky. Vedi come ne sono uscito con eleganza, ti sono piaciuto, insomma, sembravo Alonso nella fase di sorpasso all'esterno, ecco, ai danni di Raikkonen e Hamilton, hai capito? Sì, Monte Carlo, dove la Ferrari non vince da un sacco di anni, e ti no, confesso. No, guarda, allora lì è una cosa maledetta. Sono 12 anni che noi non tocchiamo palla dal 2001. Non stusciamo palla, sì. E ti dirò di più. In anni in cui la Ferrari dominava, 2002, 2003, 2004, ancora 2007 col mondiale di Raikkonen, siamo sempre riusciti a perdere tra Cordoli e Tombini. Io ho quasi il sospetto che si tratti, come dire, di una fattura, di un malocchio, qualcosa del genere, perché sono state sconfitte impensabili. Tra l'altro rifletti anche su questo: il povero Senna, prima di salutarci tragicamente nel 1994, aveva vinto 6 volte a Monte Carlo, record assoluto, sì, no? Schumacher, col successo del 2001, arrivò a 5. E tutti immaginammo che avrebbe battuto il record di Ayrton anche a Monte Carlo. E invece non ce l'ha mai fatta, nemmeno quando è tornato con la Mercedes. È rimasto a 5 successi. Quindi fra 2 settimane sarà un appuntamento imperdibile, perché lì comunque, voglio dire, a parte i latitanti che vedi di tutto lì. No, ma poi io sono un vecchio pazzo, no? Io sono, figurati, l'altro giorno ho confessato la mia passione, il mio sogno, che sarebbe quello di correre il TT all'isola di Man, magari cercando di evitare un palo. Però volevo dirti una però roba, Monte Carlo è il mio gran premio preferito, io ma sono così. Però sai, io tutte le volte che vado a Monte Carlo, e ahimè ormai mi succede, come dicevo prima, dall'epoca delle guerre puniche, quando arrivo al fatto, penso sempre, qui ci vorrebbe un cellulare. Ma non nel senso del telefonino, un furgone cellulare della polizia penitenziaria, sì, perché se tirassero tutti gli evasori fiscali, tutti, diciamo così, i mignottoni, eccetera, tutti i latitanti, guarda che si fa una retata colossale nel weekend del Gran Premio Monte Carlo, eh. più che un cellulare ci vuole un tir blindato. Sarebbe un'operazione all'insegna della legalità, sì. Hai capito? Certo. Però... Certo. Però lì invece non lo concedono lì, hai capito? C'è l'extraterritorialità, vabbè. Che, però resta la corsa più bella, affascinante, più bella, la non corsa più stimolante che c'è. Insomma. Sì, assolutamente. Poi vedi una roba, anche questa, che è la contraddizione suprema che esalta poi la Formula 1, che in una gara così strana, tipica, assurda, dicevamo prima, no? Ayrton ci ha vinto 6 volte, Schumacher 5, Prost 4. Ah, certo, cioè alla fine della fiera vincono veramente grandissimi. Certo. Leo, ti ringrazio come sempre. No, grazie, ho sentito che prima hai mandato anche un mio vecchio pezzo di repertorio con te, ormai devo dire. Facciamo una coppia tipo Letta e Alfano, e con questa ti saluto, sperando di durare di più di loro, buon lavoro. Ciao Leo Torrini, grazie, ciao Leo Torrini. Mamma mia, quanto mi diverto, poi pensare che poi mi tocca parlare del bestiame degli stadi e dei muggiti. Degli stadi, che per fortuna è finita, ragazzi. Ancora una settimana di nulla, una domenica di super nulla, e poi ci rivediamo tra un po'. Insomma, Alessandro Modena, 800240024. Vi convoco oggi e sempre su qualunque argomento di cui abbiate voglia di parlare. Dica. Pronto? Eccomi. Sì, l'argomento è il psicodramma che stiamo qua vivendo a Modena sul Sassuolo, che in non so in quante 10-11 giornate è riuscito a dilapidare un vantaggio incredibile. Sì. Quindi quanto poco di matematico ci sia nel calcio, proprio la condizione psicologica quanto incida. Era da chiedere anche a Leo, perché Leo so che è di Sassuolo, quindi forse lo vive anche lui questo piccolo psicodramma. Sì. Ma mai di sperare, è venuto il braccino come i tennisti, no? È una definizione sin troppo scontata. Lì non sai più cosa fare, no, giocare per il pareggio, continuare a giocare come ha sempre fatto per la vittoria, e sabato secondo me sarà una cosa veramente allucinante, perché Livorno verrà qua non so in quanti tifosi, ma veramente per giocarsi tutto. Sì, però mentre sai, quando ci sarà da stupirsi se a Verona sarà il pareggio biscottato, però è nell'ordine delle cose, non sì, niente da scandalizzarsi. Qua da noi è nell'ordine delle cose, non siamo in Inghilterra, non lo saremo mai, è inutile stare a fare la solita manfrina. Però io credo che forse è perso tutto, forse è elevata questa pressione, forse è elevata questa scimmia. Io ho come la sensazione che vedremo il Sassuolo sul serio. In quella parte rivedremo il Sassuolo, vive molto, cioè nel senso, troppa pressione non va bene, poca pressione qua a Modena, non c'è mai stata molta pressione sul Sassuolo, altrettanto non va bene, nel senso che alla fine quando c'era da concretizzare, fare il pareggino qua, il pareggino là, nessuno più ha ragionato in questi termini e questi risultati. No, nel calcio mica abbiamo visto solo queste, abbiamo visto anche perdere una finale di Champions League sopra da 3-0, ben nota, no? Soprattutto ai tifosi del Milan, sopra 3-0 all'intervallo. Abbiamo visto finale di Champions League decidersi nel recupero. Insomma, il calcio è una bizzarria, è una meravigliosa bizzarria, e ci sono anche queste cose. Grazie Alessandro. Antonio Napoli. Sì, salve. Salve. La mia più che altro è una domanda. Dica. Moratti viene deferito dopo Inter Atalanta. Perché mette in discussione la regolarità del campionato. La Juventus dice di avere 31 scudetti. Milan si presenta la nuova maglia con la toppa della Champions. Da Firenze arrivano gli sberleffi e Galliani reagisce in modo piccato, come lei sa, no? Ultima, ennesima puntata di questo finale di stagione che per fortuna è finito. Dica. Non è mettere in dubbio la regolarità del campionato dicendo di avere 31 scudetti, oppure di presentare la maglia due settimane prima della fine del campionato con la toppa Champions? Guardi, sul presentare la maglia con la toppa Champions due settimane prima della fine del campionato, non direi, può essere magari anche un modo di tirarsela addosso la sfiga, perché è così. L'altra questione è molto differente, e io conto gli scudetti che ci sono scritti sull'albo d'oro, quello ufficiale, non condividendo, ma non voglio riaprire questa storia proprio oggi, non condividendo quello assegnato e preso dall'Inter. Secondo me quei due scudetti non andavano assegnati, l'ho detto già mille volte. sempre scatenando un sacco di reazioni inviperite, vabbè. Però insomma, se mi tirate a ripetere il mio pensiero, io lo faccio. Siete convocati e dite quello che volete. 800 24 00 24, numero verde. Luciano scrive su Twitter: spendi una parola per l'Udinese, 7 su 7, e mandi da Luciano, fedelissimo. Sì, parole sull'Udinese se ne potrebbero spendere molte e tutte molto belle. Sono curioso di capire se Guidolin finirà nel gran ballo nel gran casino delle panchine che vivremo quest'estate, perché niente è impossibile nell'estate delle panchine. C'è ovviamente anche Mancini sulla piazza, che è stato lanciato dal City, pare che la vada Pellegrini, eccetera eccetera. Adesso però è il momento di salire, di scalare il podio delle dichiarazioni della domenica, le più divertenti o raccapriccianti, se volete. Siamo qui da De Laurentiis. E poi parteciperemo il 3 e 4 agosto a Londra ad un quadrangolare dove il Napoli è stato invitato dall'Arsenal insieme al Porto e al Galatasaray. Come? Non ho capito bene com'era il nome della squadra turca. Galatasaray? Manca un ta. Lo scriveremo a De Laurentiis. Secondo gradino del podio, abbonato a questa, insomma, fatto raccolta di medaglie di tutti i convocati, lo Tito. Tutti stanchi tranne Olimpia, che ha sempre continuato il suo volo lì, insomma, con... Si allena pure lei, si vede che c'è le condizioni atletiche di Olimpia, sono buone. Anche perché è ben nutrita, gli ambientalisti devono tranquillizzarsi con quello che ci costa solo d'alimentazione. Tra salmone e cose. I salmoni ad Olimpia. Olimpia mangia i salmoni e lo Tito glieli compra, come avete sentito. Parleremo anche del Trentino Volley che ha vinto lo scudetto, ma ieri c'è stato di tutto, insomma, c'è stata la corsa, c'è stato il Giro d'Italia, la finale di Eurolega di basket, i playoff di basket italiani e l'assegnazione dello scudetto al Trentino Volley. Ne parleremo con più calma nei prossimi giorni, oggi con una copertina finale dedicata a Jack Sentini. Giulio, provincia di Venezia, dopo il primo gradino del podio, e qui andiamo all'estero. Era Ibrahimovic, era la festa del Paris Saint Germain, era lo scazzo tra Ibra e Leonardo, e anche qui vediamo come va a finire. Giulio, provincia di Venezia. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno Giulio. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io volevo spendere una parola per Melandri, che finalmente in Superbike, dopo un po' di tempo, diciamo, di alti e bassi, tutti riesce a ottenere questo ottimo risultato, e chissà sì, che sia, insomma, un presupposto per andare sempre meglio nelle gare a venire, diciamo, che non sia stato solo un weekend indovinato, ecco. Sì. Lo auguro per lui e per la BMW, che è in crescita, sì, e tutto. E poi scherzosamente volevo chiedere, allora, io premettiamo che sono un motociclista, di professione guido un TIR, mi candido per guidare il suo motorhome quando lei realizzerà il sogno di correre all'isola di Man. Grande, andiamo io a lei. L'ascolto per radio, grazie, ciao. Grazie a lei Giulio, grande, stiamo facendo già la squadra. Allora, su Melandri, prima della borsa, sentiamo anche la voce del pilota che ieri ha vinto a Monza. Ah, sicuramente, credo che le modifiche che abbiamo fatto sulla moto qua ci abbiano riportato sulla strada buona, e da qui in avanti sono sicuro che possiamo lottare per le posizioni che contano ad ogni gara. Tutti convocati. 800 24 00 24, vi convoco tutti. Intanto stiamo formando il team per la gita all'isola di Man per partecipare al TT. Abbiamo trovato chi guida il motorhome, bisogna trovare motorhome, e chi viene a fare il cuoco, Luigi su Twitter.

cioè non è perché adesso improvvisamente e fortunatamente ci si rende conto della gravità della situazione che io non capisco Gullit, onestamente, e chi la pensa come lui. C'erano anche prima, e con questa allora bisogna lasciare che una cosa così marcia, così nauseabonda vada avanti, perché c'è sempre stata. No, anzi, lui dice perché vi siete svegliati solo adesso. Perché evidentemente prima c'era meno sensibilità, c'erano anche meno mezzi, c'era anche meno propagazione. Una volta, sai, non c'era tutto questo tam tam giusto e giustificato che viene anche alimentato dalla tecnologia, perché adesso qualsiasi cosa succeda per fortuna viene evidenziata nel bene, ma soprattutto nel male. Io sono favorevole assolutamente alle telecamere, ai microfoni, anche se vuoi non ti dico alla violazione della privacy, ma al ridimensionamento di una certa privacy, perché quando uno quando uno commette dei reati o comunque non si attiene a quelle che sono le leggi della vita civile, va assolutamente perseguito, e ci mancherebbe anche che devi tutelare la privacy di uno che commette delle azioni improprie. No, no, ma chiaro, ma poi ha ragione Tommasi, che oggi ha dichiarato ci sono troppe zone franche negli stadi, e anche questo è un vecchio problema. Senti, come per cambiare argomento, questo campionato è finito, no? Va così? Sì, no, beh, per quanto riguarda il primo e il secondo posto sicuramente, stiamo parlando di aritmetica, così per la zona retrocessione è abbastanza avvincente quella la lotta per il terzo posto, che vede coinvolti Milan e Fiorentina, la lotta anche per un posto in Europa League, dove c'è comunque l'incognita della Coppa Italia. Chi vince la Coppa Italia, cioè chi vince il derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio, avrà diritto al terzo posto che conduce appunto in Europa League. Comunque tutto sommato è stato un campionato agonisticamente valido, magari non spettacolare, però ne parliamo tutti i giorni e dalla prima all'ultima giornata, a differenza di altri tornei, lasciamelo dire, dove magari ci sono solo due squadre o dove comunque, come succede in Francia, nonostante i tanti soldi, grandi campioni stanno un anno e poi se ne vogliono tornare addirittura in Italia. Addirittura in Italia. Senti, un'ultima cosa, Secco, dove va a allenare Allegri? Resta al Milan, perché in realtà mi sembra di intuire che la Roma sia molto su Mazzarri. A Napoli potrebbero prendere altre strade, e ricordiamoci che a differenza di Mazzarri, che è in scadenza di contratto, Allegri ha ancora un anno con il Milan. E comunque poi ci sarebbe da gestire comunque un divorzio più o meno consensuale, dove anche il termine buonuscita non è proprio gradevole, sarebbe gradito ad Allegri, meno gradevole per il Milan. Alla fine resterà qui, anche se ci sarà da parlare, e probabilmente Allegri punterà al prolungamento di questo contratto almeno per un altro anno. Sì, resterà mal supportato comunque, quindi non è un bel punto di partenza. Guarda, io ho tanti anni da grafici e per fortuna anche tanti anni di servizio. Sono qui dal Milan da sempre e, se ricordi bene, Sacchi, Capello e Ancelotti non erano esenti dalle picconate presidenziali, più o meno simpatiche, certamente. Più o meno gradite. Certamente. Però alla fine bisogna anche saper convivere, e penso che Allegri, che ha un carattere abbastanza fumino, se ne debba fare una ragione, al di là del fatto che poi alcune volte si eccede, però ecco, si deve consolare perché è in ottima compagnia. Grazie Furio, buon lavoro. A voi, grazie. Tutti convocati. Ieri era facile la fuga dai prati del pallone, c'era di tutto in giro, scanalando qua e là, compreso il Giro d'Italia con Nibali che sembra avere l'inerzia della corsa, diciamo così, e con un altro episodio, insomma, francamente da ridere, mi spiace tantissimo per il protagonista, Betancourt, che sul traguardo di Firenze ha fatto il pozzato. Alza le braccia invece. A raggiungere, sì, secondo Betancourt sarà. Secondo Betancourt, può solo guardarlo mentre lo sorpassa Pantano. Dunque Betancourt chiude in seconda posizione, festeggia, ma non fa una gran bella figura Betancourt, perché ce n'è uno davanti, Carlos. È arrivato Maxim Belkov, è solo secondo Carlos Betancourt. Sì, poi hanno dovuto spiegarglielo, poveretto. Guarda che davanti c'era Belco, guarda che sei arrivato due, non sei arrivato uno. Allora, Alberto, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno, salve dottor Genta. Salve. Volevo dire una cosa riferita al razzismo, agli episodi di ieri sera. Partendo dal presupposto che condanno qualsiasi forma di razzismo, mi sembra un po' anche troppo accentuato il fatto che ogni volta si fischi Balotelli si ricorra al razzismo. Perché ieri sera in campo c'era anche Montari, non mi sembra, io ho visto la partita, dei bu nei confronti di Montari non ne ho sentiti. Io, allora, il razzismo solitamente, se c'è una forma di razzismo, o è su vasta scala oppure non è rapportata solo ed esclusivamente Balotelli. La sensazione è che sia l'uomo Balotelli. Sì, Alberto, in parte è vero anche che pure Boateng è stato preso di mira all'inizio. È ovvio che questi dementi colpiscono là dove fa più male, colpiscono i giocatori più temuti e comunque, insomma, ma alla fine dimostrano anche scarsa fantasia. Io mi ricordo quel il meraviglioso striscione che ha fatto l'epoca Giulietta e Nazzocca. Cioè, con un po' di fantasia, magari fai meno, provochi meno assurdo dolore quasi fisico a questi ragazzi, che io capisco, sentirsi insultati in questa maniera è qualcosa, è un pugno nello stomaco. Anche loro dovrebbero provare a rimanere un po' più freddi. E comunque, Alberto, che sia Balotelli, che sia Boateng, che sia Montari, è inaccettabile in ogni caso e con ogni giocatore. Franco, Milano. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo dire soltanto questo. Per il Milan di ieri, che cioè, prendiamo severamente provvedimenti contro questi sfoghi incivili, per me sono, giusto? Cioè, giusto, altro che, non vedo altro termine, me ne vengono in mente o di peggiori. Facciamo come in Inghilterra, che usiamo quegli idranti, sì, così almeno si bagnano un attimino. Non siamo in Inghilterra e non possiamo parametrarci alle soluzioni inglesi e nemmeno alla mentalità inglese. Anche lì i loro problemi, anche in campo e di questo tipo, insomma, ne hanno avuti. L'Italia non è purtroppo l'unico paese in cui si sentono queste storiacce, non è l'unico paese. Certo che bisogna, il modo per debellarli bisognerebbe trovarlo. Non so quale, sinceramente, anche se Gagliani oggi sembrava avere la verità in tasca. Ha ragione Furio Fedele, ci vorrebbe la certezza della pena con strumenti legali, legislativi, che già esistono. Allora, andiamo su un argomento decisamente meno pesante, l'Oscar del gol. And the Oscar goes to... In mezzo a due, i Barbo di forza, i Barbo strepitoso, trattenuto, i Barbo ancora! Storari Victor! I Barbo! Eccolo il giocatore di cui parla Lopez! Che forza nelle gambe! Come è andato via in mezzo a due? Un fenomeno, i Barbo! Tu sei bravo! Ma che bravo! Sei bravo! No, tu sei molto, molto bravo! Tu hai un dono? No! Te lo dico io! Tu hai un dono! E dunque, i Barbo, grande gol quello di ieri, in questa domenica così piena di spunti, è stato facile anche rifugiarsi ieri dopo un po' di noia e molta maleducazione a San Siro, è stato facile rifugiarsi sotto i canestri, dove c'era una finale per il titolo europeo con Olympiacos, che l'ha portato a casa per la seconda volta consecutiva, dove ci sono i nostri playoff che stanno diventando estremamente interessanti nella luce del tramonto di Siena. Magari non è ancora d'accordo Flavio Portaluppi, general manager dell'Armani Olimpia Milano, che diventa la mia personale favorita, e lo dico da un po', cioè chi esce da questo confronto è la favorita per lo scudetto. So che stai facendo gli scongiuri, caro Flavio, caro Lupo. Tanto per radio non si vede. Sicuramente ieri è stata una partita veramente emozionante, decisa all'ultimo secondo. La serie nostra con Siena sicuramente, secondo me, farà uscire una candidata importante ad arrivare fino in fondo. Non bisogna dimenticare che siamo dalla parte della squadra che ha onestamente dominato, comunque controllato tutta la stagione, a partire dal pre-stagione. Quindi sì. Varese ha dimostrato di meritarsi il fatto di essere arrivata alla fine della regular season prima, e lo sta dimostrando anche in questi playoff, fermo restando sicuramente le valutazioni che ciascuno può fare sui roster delle squadre che sono ancora in lista per vincere il titolo. Sì, ma sono rimango più dell'idea che comunque la, la squadra che fra noi e Siena uscirà avrà le carte in regola per poter competere nella, nella serie di finale discorso, con la Lupo, è un discorso quasi matematico, no? Cioè, siete le due squadre più lunghe e su serie enormemente lunghe, eccessivamente lunghe, con le sette partite a quest'ora della stagione con i giocatori spremuti, un vantaggio esiste fatalmente. Ti chiedo ancora questo: cosa è cambiato, quando è cambiato? In Milano, in una Milano che è stata ondivaga, se è cambiato, ma se, no, se è cambiato per essere cambiato, è cambiato, cioè non è la stessa squadra di un mese e mezzo fa. Sicuramente il nostro girone di ritorno, nonostante due partite giocate veramente male e perse in maniera inopinata, anche se l'avversario è Cremona e Montegranaro, se le sono assolutamente meritate, è stato un girone di ritorno più consistente. Uno scivolone a Reggio Emilia, d'accordo, però comunque è a Varese, però direi più consistente. La squadra, diciamo che da un punto di vista mentale, in questi playoff ha iniziato a essere più presente, più dura e più costante per 40 minuti. A livello tattico invece direi che con l'arrivo dei due playmaker, Green e Bremer, muoviamo di più la palla, adesso abbiamo più verticalità, o comunque direi tre giocatori che vicino a canestro ci possono dare ciascuno delle caratteristiche ben precise e specifiche. Pops è molto verticale, Giannis è molto tecnico e Radosevic è molto dinamico, per cui abbiamo l'imbarazzo della scelta, direi, vicino a canestro. Eh beh, direi di sì. In bocca al lupo, Lupo. Grazie, Crepi. Grazie, Flavio Portaluppi. Allora, oggi chiudiamo così, sentendo la sua voce. Nei prossimi giorni cercheremo di portarlo a questi microfoni e per riassumere la storia meravigliosa di Jack Sintini in un anno da una malattia molto grave all'essere MVP della finale scudetto. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Tutti convocati domani alle 2. Voi sapete dov'ero un anno fa, che io credevo non sarei neanche riuscito a sopravvivere. Adesso sono campione d'Italia, io non lo so, io non voglio sembrare melodrammatico, però lo dico a tutte le persone che mai si troveranno a essere ammalate di cancro o hanno il cancro adesso. Non perdete mai la speranza, perché il sole può tornare a splendere. That's the sound of sunshine coming down. Tutti convocati.